Ok. Sfida accettata. Vediamo un po' come va. Stile libero. La mia testa, la mia vita e i miei ricordi scorrono sui miei occhi come un vecchio film di sordi. Il mio cervello è un hard disk acceso giorno e sera e ha la capacità di oltre 1 milione di tera. È pieno di filmini, di foto e anche di canzoni, è ricco di esperienze, di abitudini e di emozioni. È tutto intasato da parole e da pensieri che influenzeranno il domani come fanno oggi e hanno fatto ieri. Tante piccolezze, dettagli e curiosità che tu chi pensa di non avere per ognuno di noi ha. E andando avanti il contenitore ottiene un fondo, nonostante si riempia e anche si svuoti, influenzato dal mondo. Lotte, guerre, gente che comanda, intanto il destino della nostra terra si rimanda. Il discorso dello schiavo infine ci ha centrato, e la teoria di Old Dubai anche lei ci ha centrato. Dammi un ritornello, suona più forte, voglio sentire il mondo con tutte le sue porte aperte. Il suono non si ferma e non si perde, ti canto dove mi pare, amico, non si sente. Il volume forse è balzato, potevo essere più entusiasta di quello che ho dato. Lascio stare, sfida accettata, a voi il commento, la canzone è ormai andata. Oh.